lì a disputarsi il secondo posto alle spalle della Lazio. Quello del primo tempo di Bari è stato un Milan pratico, concreto, efficace, forse favorito magari da un avversario che di fronte si sta confermando in crisi, però comunque ci è sembrato un Milan molto quadrato. Evidentemente il fatto di aver rinforzato un pochino il centrocampo, di aver tolto un po' di giocolieri, ha finito con il giovare alla squadra di Massimiliano Allegri. Massimiliano Allegri che però dovrà gestire nelle prossime settimane una situazione sempre più delicata all'interno dello spogliatoio. Di fatto ieri c'è stata la rottura con Pato, che oggi siede in panchina. Ibrahimovic pare non abbia legato molto con i brasiliani e si sia fermato una sorta di clan pro e contro il Brasile, insomma, quindi anche il Milan ha le sue gatte da pelare. Certo, i rossoneri adesso sembrano stare meglio dell'Inter. L'Inter è in crisi di risultati, di gioco, di motivazioni, ci sono tanti infortuni, sicuramente rappresentano questi un alibi per Rafa Benitez, che però non sembra avere quella prontezza, quella lucidità, quella capacità di leggere le partite, di cambiarle in corsa, quella capacità di infondere motivazione ai suoi che invece sapeva dare José Mourinho. Credo che ci sia stato comunque, visto a posteriori, con un 2-3 mesi di ritardo, un grave errore da parte della società, che in qualche modo ha sopravvalutato i grandi successi della scorsa stagione, però non ha considerato che c'erano tanti giocatori oltre i 30 anni che inevitabilmente avrebbero presentato il conto, peraltro dopo il mondiale. Non sono stati presi rinforzi, anzi la squadra si è indebolita, perché in questi due mesi di Coutinho e Biabiani Balotelli sarebbe stato titolare fisso, e credo che l'Inter quest'anno faticherà parecchio. Molto bene Paolo, poi vedremo di seguire questo secondo tempo, ma mi sembra che Bari fosse una squadra, era partito benissimo in questo campionato, poi si è davvero perso. Io invece devo dire che, a proposito di protagonisti ritrovati, la Juventus è a un solo punto dall'Inter. Schifo, adesso fra l'altro tutto in discesa perché il Cesena gioca in 10, no? Sì, per come era iniziata sicuramente la partita ha avuto una svolta con il rigore di Del Piero, il gol iniziale di Jimenez, poi la Juve ha provato